sistemo il cane, ci vediamo. Invece poi mi ha chiamato verso le 10, ho detto che veniva alle 3, ha detto no, io alle 3 non posso uscire, non c'è mia figlia, non posso lasciare mia moglie da sola, e quindi non ci sono andato per quello, capite? Cava. Prova. Beh, ti sei ascoltato, c'è rumore. Sì, ma è basso basso, no? È quasi percettibile. Ma hai delle cuffie, ma qua già si sente. Perché già le cuffie fottono, non so quante volte io parlando radio, faccio il preascolto con le cuffie, cavolo, bella radio, già sta andando bene. Come ho provato il bacio, ad esempio, perfetta, bella, pimpante. Stavo parlando con Luca, ma è tanto che non sta andando il bacio. Quando il BPC, ma è vibrata la radio, è bella, però sente questa vibrazione, anche io non la sento in cuffie, invece lui la sentiva, capito? Vabbè, boh, non so cosa dirti. Vabbè, quando ne trovo altre le compro e non c'è problema. Compra. Compra, non migliora, telefono con Gianni Cappi, adesso vediamo di fare qualche altra operazione vintage, poi domani vado a Roberto, tanto se ne ha comprato, ci ha comprato questa, deve fare posto. Sua di quelle che gli ho dato io. Andavè. Di queste io non ne compro più. No, mi ha telefonato quello, come si chiama? Io lo conosco, non te lo dico qua. Allora dice, volevo un 440, t'ascolta. Mi ha dato un nevo di 440, ne ho venduto io a 7. Otto, l'ho fatto fuori 2 mesi fa, mi è contentissimo quello che c'era, ed è quello che stava parlando la produttrice l'altro giorno. Contentissimo, ha giurito, lascia perdere, io 4,40 non le compro mai più. Secondo me sono una barca di soldi con 4,40. Sono 4,30, ma vai, ti ho, ah, ti avvidi, ho 4,30, ma 4,40, passa via. No, ma è un casino poi questa radio qua, non vedi nessuno che racconta. Ti sto dicendo, Luca, qua, mi stava prendendo un bel male. Fortunatamente me l'hanno ripreso in tempo grazie a una persona che mi ha detto come fare, perché ero convintissimo di nuovo che era Lucio. Ho lasciato 2 o 3 giorni spento, stavo usando il 140 che ho comprato, ma che è questo. E poi l'ho lasciato spento. Sono andato a commutare, accendo, è partito, a un certo punto, muto, completamente muto, e tutti i puntini, ho detto, boh, andato d'ora, anche 200 euro, non è possibile. Dopo lo stacco lo metto dentro l'armadio, non ne voglio più sapere. Invece dopo qualche minuto si è ripreso e ha funzionato benissimo. Ho chiamato una persona e mi ha detto, guarda, probabilmente sono le tensioni, perché se fossero stati i condensatori non sarebbe partito. E mi ha detto, come fare? Abbiamo ripreso proprio nel pero. Tutto rifatto le tensioni, tutto messo a posto. Come ho trovato l'occasione, l'ho venduto immediatamente. Ma gliel'hai visto come l'ho venduto, te l'ho fatto vedere, scatto originale del 440, ce l'avevo in mansarda. Allora mica mi ha detto, no, la scatola c'hai, sei il primo che mi dà la scatola con il 440, io dicevo, sì, no, se ce l'ho la roba la do, non è che me la tengo io. Capito? Guarda la scatola, l'imbaglio originale, con ciò che ho, tutti i manuali, i cavi, i cavetti, i microfoni originali, tutto in originale gli ho dato. Una gattata ha venduto, 350 euro. Così, bravo. No, neanche io ne prenderei 4,40. Guarda, a me mi ha dato tantissime soddisfazioni, però ha questo problema, io 3 volte, 2 volte ho pagato, 1 volta no, perché me l'ha fatto una persona che tu conosci, capito? 2 volte ho pagato, Bianconi, lui ha 180 euro, mi già l'aveva chiamato Franco Risorso lo stesso, 180 euro più 20 euro di trasporto, capito? Quindi 10 andare e 10 a tornare, adesso 200 euro, ogni volta, no, alla fine ha detto, vabbè, chiudo gli occhi, loro non ce ne parla più, sono preso di nuovo 140, che è tornato di moda, e ti dico che è un grande muletto, poi va lì sui tibiati, funziona bene, a me mi soddisfa, va bene, tanto per la 27, lo devo fare HF io, la 27 per me va benissimo, non ho disturbi, non ho niente, perfetto, e poi c'ho 430, boh. Muletto, mia, vai, ma di che vado? Lo accendo e si apre. Eccolo qua, acceso. ma è bello acceso sempre. Se lo lasciano la guida acceso, spento 4.40 ma ti indio avanti già. Da anni. Sì, io non capivo che apparecchio ci aveva acceso. Mi ero tutti e tre accesi, non sapevo, non mi ricordavo quale ci avevo in funzione. Oh, e quindi niente. Dicevo che c'erano 80 metri, vediamo un po' che c'erano 80 metri. Non sono molto esperto di una ricezione del 430, ero cinato io a lui. Boh, aspetta un attimo. Claudio, senza antenna, sì. Claudio. Oh, sei senza antenna. Cosa stavi dicendo lui? Cazzo, di Santiago 3. Santiago 3? No, ho commutato al baracchino, invece che ho sbagliato. Infatti mi va a vedere senza antenna. Nel frattempo che ho commutato mi ha chiamato mia moglie, invece che ho sbagliato. Oh, ah, sì, ho commutato al baracchino, sono andato a risponderti col 140. Ma cosa è successo ai car radio? Siccome poi ti ha risposto Gianni, e Gianni il segnale dal suo aggiuntare il radio, lo problema. Ti aggiunti, sono entrato in coglionito, ok? No, e te sì, ma è la scrivania. Se voglio modulare col baracchino, ma veramente modulare con quelle. Ho commutato, mi ha chiamato mia moglie, poi sono tornato e ti ho risposto con lei. Con 140 invece avevo già commutato, ragazzi. Claudio, guarda il cellulare un attimino, che ti ho mandato un messaggio. Ehi, Gianni, aspetta che lo guardo. Ok, già, adesso te lo mando, ok. Ehi, grazie. Che avanti, buonasera. Mi sembra Eugenio, tu sei Eugenio. Mi sembra te Eugenio. Attenzione, Eugenio, tu sei. Hola, attenzione, Eugenio. Buonasera. Tu sei, dove sei? E basso ti sento oggi, come mai? Non intendo più. Avanti, chi vuole entrare? Stavo dicendo, sono affinati, Eugenio. Buonasera, Ulario, sono. Buonasera a tutti, capo. A te il cambio deve particolare, lo prendi. Ciao Daniel, doppio rundo da questa parte, dai, in compagnia di Luca Flipper, di Claudio Sparviero, di Roberto Quadratto, dai. Avanti di nuovo l'uranio, così mi dici come ti sto arrivando lì a Usilo il segnale, cambio. Ok, allora il segnale qua sei, con il segnale di 8, Santiago 8 e la rete di 5, K, ok. Luogo, buonasera a tutti, Roger. Come sto arrivando io, dammi il segnale, parla di diretta, a te il cambio. K, anche tu sei così, sei 8, vai. Ok. Va bene, ok. No, mi stavo preoccupando l'altro giorno qua, sto pagando dalla pioggia, ma questa pioggia mi stava facendo un sacco di stazionaria. Infatti, ho detto, niente da fare, ho spento tutto via, ho staccato tutto, con la pioggia qua, niente da fare, con l'antenna. No, va bene, vuole cambiarla, va bene, riprendi e fai girare, scatti il cambio, dai. Avanti, cavagava, dai. Già ti ascolto, Luigi, dai, ti ascolto lo stesso. Quello che è entrato adesso dice, da Usilo, è uranio da Usilo. Ciao Francesco, buonasera. Te l'ho mandato già, te l'ho mandato. Ciao Eugenio, anche qua non sei molto alto il segnale, dove sei? Grazie. Ehi, a Pantalona, va bene, ho capito. Va bene, ok. Ci sono io, cambio. Sì, mi è sceso un cuscio poco fa. Non c'è già di combinato. Che ha attaccato il capo da un'altra parte. Sono per rispondere a Luca, c'è un'antenna con questa. Mi sono cacciato, detto, ma bruciato la radio. Invece ho c'è un'antenna, adesso ho ricommutato, sto provando il vapore. Ma ti sentiva lo stesso? Sì, sentivo tre. Vabbè che a me mi sfratti di... stavo controllando un 4-5 canali, ma si è attaccato. No, questo è 140, non hai capito cosa ho fatto. capito. Che ho buttato sull'altra radio? Sì, ho buttato sull'altra scrivania, stacca completamente le antenne qua, no? E vado sull'altra scrivania a parlare con i baracchini. Nel frattempo l'ho commutato, mi ha chiamato mia moglie, sono andato da mia moglie e certo sono tornato risposto con 140 a 70 anni. Ma come era che è battuto tutto? Ma vabbè, là. Comunque non risponde quella persona, no, non posso fare niente. Ciao Frank. Sì, ciao, con calma, cazzo di fare bene, mamma mia, che mi fai incazzare un mecca. Piano, tu chiami con calma, già ti rispondo, vuol dire che ho lavoro, vuol dire che è impegnato, no? Non ti creare problemi, già ti rispondi. No, sto dicendo, non risponde, probabilmente è impegnato, non sto dicendo nulla. Ciao, regala. Ciao Frank. Ciao Gianni, ciao Flavio, buonasera. Ciao Flavio, buonasera. Ho modificato il motore qua, l'ho tirato, portato all'altra parte. Che nuovi? Sì, qua è più o meno lo stesso. Beh, se adesso l'hai puntato da un'altra parte, ti sei abbassato nella zona di Lucca e hai aumentato qua. No, ma dove devi abbassare? Dove ce l'hai questo dipolo? Nel terrazzino? No, ma non fa, non ne mettete così nel terrazzino, c'è il muro. Che non lavorano bene così, mettila sul tetto. Stai attento però a usarlo così attaccato al muro. Vai qua. Io gli ho detto come fare. Non lo mettere molto attaccato al muro, faccia no, casino. Ma troppo poco, fra, troppo poco, non è radio, magari ti può fare rientro del ref e gatto di luce alla radio, capito? Meglio l'antenna della macchina. Qua sei 9, non di più. Che fa? Fra pare che stiamo vendendo. No, negativo. Andiamo, questa è la sua, vendo, questo è 180. E questo se no è alla 78 del gas. Ah, vabbè. Che mi si è ballato il gas. Io fra, ma lo vendi 80. Ma se no, carissimo, là, ma se no, fa quello tutta la linea. La colonnina è 1060, 1053, tutta la mia completa è 1080. Per me. E quella che ti ho dato io, anch'io ho la completa 140 adesso. Come quella che ti ho dato io, cioè, no? È la figlia 150. E ci conferma, quella che ti ho dato io. Va bene, va bene. Non ce lo trovo 70, me lo prendo. Faccio 430, 140 e 180. Sì, sta chiamando oggi. Oggi ho sentito, però lascio lavorare a Franco. Dimmi oggi, ma già stai arrivando bene, già ti sento. Già ti sento, non forte come le altre volte, ma già ti sento. E adesso ho messo l'amplificatore dell'antenna, ti ascolto meglio. Grazie altrettanto, Eugenio, grazie altrettanto. Ciao, Eugenio, grazie altrettanto, alle prossime. Hai visto quanto è utile già l'amplificatore dell'antenna? Io ce l'ho lo stesso. Ce l'ho anche sul B300 l'amplificatore dell'antenna, io. Sono molto utili. Te la sollevo un bel me. Se te la solleva, poi non ti porta al QRM, non ti aumenta il QRM, ti solleva il segnale solo. Sul B300 io, sul B300 piccio al preamplificatore dell'antenna. Poi l'RMI te li fa su tutti c'è il preamplificatore dell'antenna. Lo so. L'RMI è una casa seria. Beh, me lo dico. Allora, quel B300 io quando lo provo, dandogli pochi watt funziona benissimo. Però c'è questa cosa che tra quinta e sesta marcia non cambia, cioè non c'è variazione, capito? fino alla quarta varia, poi quinta e sesta non varia, non gli compreso il bagoccio, vabbè, mentre invece la remetto lì sì, è non satura, bella, pulita, tranquilla. Più di 9 ci adesso. Al Liponi prende due segnali, prova da Luca. Luca, mi ascolti, dopo che l'antenino stanno, la quella che avevamo nella BAF. La non è la funzione. Non c'è neanche il stazionale, la attaccata sul figlio, là, tra la mia. Avevamo Caracca, se ti ricordi, va bene con l'antenna, la voglia. Un euro è stazionario, ma anche si muove, dai. Da qualche euro stazionario su 40, uno è la cosa. E adesso va bene. Allora, grande, bene lo senti già? Io sì. Io allora già va bene. Dici che faccio la polarizzazione orizzontale, a vedere. Con 430 polarizzazione orizzontale, invece mi sentite. Sì, che c'è anche Usilo. Usilo? L'ho chiamato, però non avevo risposto. Uranio, ci sei? Sì, io sono qua, già non sono stato da voi. Ok. Questo qua è di 300 piccolo anch'io, con io, cioè, dalla mia casa di Aretta. Ok. Cioè, comunque, di fatto, quando sono lì, il bis 300 piccolo. Ok, perfetto. E c'è un telefono qua. Vabbè, dai, riprendi Claudio. Sì, sta attaccando la polarizzazione orizzontale. Oh, yeah. Eccomi qua. Ok, vediamo un po' se mi sentite. Adesso sono con il polo io. È il 430 con il polo. Sì, che ti sentiamo. Va bene, no? Santiago no, da Radio 5. Santiago no, da Radio 5. E tu, Uranio, mi senti? Sì, ti sento, ma c'è una piccola onda. Da 1.25 si è calato la radio di 2, scappa, una pista enorme. Il segnale deve essere più o meno lo stesso, ma la radio è calata di parecchio, parecchio, parecchio. Parecchio. C'è la MC60 qua, non lo so. Così, non sto dicendo le palle, no? A me non la frega neanche delle palle, capito? Io dico la verità perché è così, si è caduto poi alla professionalità, capito? Comunque è così, dalla verticale all'orizzontale, per esempio di polo, la vera è stata parecchio. Da 5 si arrivi perfettamente qua a 5, si è calato almeno a 2. Anche da te già? No, da me no. Come radio più o meno va bene? Sì, da me è sempre uguale. Non so, Francesco, non so cosa dici, perché c'è l'MC60 anche qua, e spinge molto bene in banda laterale. Lascia perdere il segnale che sono a polarizzazione orizzontale, non verticale. Poi già spinge. Sì, il segnale arriva a lo stesso, il segnale 6-8. Il segnale 6-8, magari è calato di parecchio. Anch'io qua avevo formato in passato di polo, perché c'ho anche il polo anch'io. Però questo polo è dei 40 metri, scatta, è 40-45 metri. E l'ho formato con un altro, è manco paragone alla verticale, cala di parecchio. E beh, se cambia la polarizzazione, è chiaro che cambia. Questo è un signor di polo, capito? Questo non è per la 27 questo. Questo è un polo multibanda. Dici che mi ascolta, dov'è? Come sta andando qua? Vediamo un attimino. Ora, uno del centro della radio. Eccola qua. Sì, cambia. È un po' più bassa la modulazione, però già viaggia, dai. Posso anche aumentarla, non è che non la posso aumentare. Beh, non riprende più nessuno. Invece come siamo qua, Michigin, così è basso. Eccolo qua, così l'abbiamo messo un pochino più alto. Vedi un po', Francesco, adesso va meglio. La poca roba ha migliorato, sì, poca roba però, appena ha migliorato, non molto. Comunque è bello, tu puoi prendere il secondo di polo, però adesso anch'io è così, se vado al commutatore che commuto il di polo, sicuramente arriverà molto più basso, a voi cambio. Positivo, va bene. Cappa di Roggero, avanti, fra, riprendi. Tranquillo. qua sono, qua. Sì, va bene. No, era una prova così che volevo fare, giusto per capire se mi sentivate con l'ipolo, come ha detto Coso. Come ha detto Luca, se in alto il dipolo già funziona bene, anche se non è accordato, questo non è accordato, è nulla, con la 27 non va bene, però già ci fa sentire, dai. Io penso che fosse perché eri lontananza con l'antenna più piccola, col dipolo, perché se no da me arriva invece per bene il radio. Questo è il 430 con il dipolo. Se cambia la polarizzazione è chiaro che è così, capito? Però già va bene. Yeah. Già va bene, dai, non c'è problema. Avanti, fra, riprendi. Ah, l'attacco l'antenna della 27, vedi, no, riesci a vedere. Se commuto l'antenna della 27 a vedere, Francesco, se cambia qualcosa. Vediamo un attimino. Adesso c'è l'antenna da 27, Francesco, com'è? Come subito, l'area 5 a pomba e si riesce protesto, 8 ottenuto, ok, roger. Io qua non riesco a capire, forse dipende pure dall'antenna che cavo non so tu. Quando l'antenna è in cessione io faccio tutti i negativi, non so perché, vabbè, comunque tu mi fai benissimo, adesso sono tutto il clima. La 5 a pompa e sulla cazzo, ok, perfetto, dai, a te. Già va bene, allora dai. Allora già va bene, campo del Gianni, tu bene mi senti adesso? Io sì. Già va bene. No, adesso c'è collegata l'antenna della 27, dai. Chiappa, chiappa del Roggero, già va bene. Beh, California, Mara, dici qualcosa, dai. California. Parido Franco, boh. Beh, hai provato a chiamare già. No, e infatti sicuramente lavoro, dai, qualcosa. Sicuramente lavoro. Sarà bene la chiamata. E infatti, aspetta che mi tolgo le cuffie, ragazzi, mi stanno sfasciando le orecchie. Sicuramente al lavoro, ma già ti rispondo. Dite. Ehi, cosa devo dire? Chi è al telefono? Al telefono? Hai al telefono? Chi è che non risponde? No, un amico di Gianni che voleva salutare, invece non mi risponde. Ho detto, sarà da qualche parte, per quello che non ti risponde. Avanti, Uranio, riprendi. Cosa già? Tutto bloccato. Io non arrivo ora, poi ho mangiato anche pesante. Ma no, io no, non va piccante, si va leggero. Non via dove è, cazzo di buoni, ha fatto pochi gocci. Bello, che si dice? Mi pare andando a vedermi un po' che televisione. Chi ha pagato? Poco televisione, perché? Sono già troppo seduto qua. Io ce l'ho accesa con la televisione, ma non la televisione da lì, di particolare. Il Natale si avvicina. Oh. E meglio si avvicina a Natale, ma non così ci vuole le balle, sono andate. Per carità, che schifo che è. Mamma mia. Dopo è Capodanno però. Dovevo rimanere a casa, non potevo bugare manco il capo della vacconda. Facco scoppiare le bombette, bubu. Ehi, scoppia le bombette. Già se mi scoppia di noi, solo bombette devi scoppiare, ma... Aspetta che il garao che il bugà canta arriva a fuoco. Ehi, io non vengo con il gano e faccio cantare il gano. I karaoke. Uranio, riprendi, cambio. Ok, perfetto, dai. Sono Roger. Cappa, ha visto allora di questo presentatore nel talizio. Parecchi allora, perché se ci sono questo volevo comprare anche io qualche altro, quando evidentemente sua moneta, momentaneamente bisogna rimanere come si è. Ok, va bene, va bene. E io come sto arrivando lì, dammi un segnale. Ma hai attaccato adesso? No, io sono sempre attaccato, adesso mi stacco, vedo un po', da adesso. Cazzo vai, da 8 a 9 più 5, che lineare? Sì, sì, sì, cazzo aumenta un bel aumento. Santiago quasi 9, liscio, quasi 9, 8 e mezzo, e poi vai a 9 e 5 abbondante quando attacchi. Tu bene lo senti Luca? Luca, Luca, Gianni. Buonasera a me. Buonasera. Ciao Claudio in compagnia di? Cosa hai detto? Ho detto ciao Claudio in compagnia di? Abbaccia appena appena Antonio Migia, ma senti che mi stai mandando in distorsione la radio. Addirittura. Così bene va. Hai potenza, perché c'è così basso? Hai la mania da baciare la bottezza di Cia Radio, ti distorce la modulazione, te l'ho già detto. Così va bene. Oh, no, allora non è il microfono. Se tu abbassi la radio, la potenza della radio, ti manda in distorsione la voce, così va bene. Calma. Così va bene. Sì, alla grande. Ti arrivo se va bene, sì. Ah? Ti arrivo se va bene. Io ti sento troppo amplificato, boh. Il microfono, Il microfono. Il microfono. Non ti comprendo, non lo vedi. C'è un bel amplificato, vero? Va bene così. Lasciala così, voglio vettiglia. Voglio che la radio è sensibile, voglio vettiglia. C'è un bel amplificato, capito? Va bene, va bene, va bene. Avanti Luca, c'è qualcuno, c'è rimasto qualcuno qua. Dove sono? C'era Gianni, non so cosa sta facendo. Gianni Magni, vuole tutto. Ciao, sì. Mi hai sentito, dai. E mi stavo assoppendo, io mi sono sdraiato, mi stavo venendo la bionda. Tu stavi mangiando? Perché ho fatto tutta la tirata oggi, cazzo, dopo pranzo invece di riposarmi, sono messo a pulire le gabbie, è tutto canto. E adesso tutto a posto, dai, perché domani arriva mia figlia, devo andare a prendere l'alberto. Ciao, tu che ciao Gianni, avanti qua. Aspetta, cambio radio, dai, ti sento male con questa, non so perché, forse è troppo sensibile. Mi mandi in distorsione la radio. Gianni, tu come mi copi? Bene, bene. Claudio mi copi male. Ma è successo anche a me, lo sai, copiamo male una volta uno e gli altri sentivo tutti bene. Non so che fare. Probabilmente dipende dal tipo di radio che ha lui, che non va bene. Tu cosa stai usando adesso in gala? Sempre, con Super Sidek. E mi è partito. Cioè? Si è messo a fischiare mentre stavo parlando, ha cominciato. Tu dire che ne usci? Sì, già vedi giù la baracchina, non c'è problema. Se non vedo per là. Allora quello. E questa che è la stazione base che c'è stamattina, poi c'ho anche 3009, ne ho altri sotto l'armadio, lì ce n'è. Io il 4000 qualcosa, Gormex l'ho venduto, non trovi niente contenente. 3009? Il 4000 quello. Non va con questo Torino? Quello che era tutto modificato. No, quello che era tutto serigrafato. Quello ce l'hai ancora? Non ce l'ho più, l'ho venduto. Tutto va bene, ti stai a. Oh, tanto, non c'è più nessuna frequenza. Vi siete sopraffogolati con Claudio, avanti qua. Ho detto prova con questa. Dai, guarda come mi è successo, 1, 2, 3, bla bla bla. Avanti, dimmi un po'. Sì, questa c'è il filtro più stretto, capito? Qua c'è il filtro troppo largo e me la mandi a tua. buonasera a tutti, un saluto cordiale qua dalla dall'Aurario, con diretta, e niente, dai, trovi bene anche tu lo stesso. Amplificatissima, ok. Perfetto, riprendi Tonino. K, ciao, mi hai sentito, ma non mi ricordo il nome. Francesco K, Uraio. Ah, ciao Francesco. Quindi Ausilio ti arriva bene. Perfetto, perfetto. Segnale di 8 è Radio 5, io sto arrivando lì. 9-5, Radio 5, un po' saturato. Poi, saturato, bravo. Non mi hanno niente di altri, non lo so, non lo so, vabbè, niente, riprendi, Claudio, a te. È un po' compressa, lo sa. Sì, ma di poco, che lo sa, però poco a poco. Prova a staccare un'aria, vedere. Il segnale è passato di 8, per la radio è ottima. Volevo approfittarne per salutare a Bacchigio che è in ascolto. Ciao Bacchigio, un abbraccio grande grande e rimettiti presto, buona guarigione, ok, avanti Tony. Cappa, dire anche per me Bacchigio, se sei in ascolto, buona guarigione, un abbraccio grande grande, ok, avanti Gianni. Gianni, c'è dormito. Non mi sono dormito, aspetta, sto cercando il telefono, sento un messaggio e non riesco a trovare il telefono, ve l'ho messo. Ma lascio perdere il telefono, ma... No, che potrebbe essere roba urgente. Sì, ti ha chiamato Falcone. Riprendi Uranio, riprendi Uranio. Più. Tutto a posto, essere. Dottor segretario, ma ce l'aveva fatto la prova, dottore. E così sappiamo se c'era il cinese, l'hanno contagiato, ma mi dice a mezzo. Un attimo. Sto regolando la stazione di qua. Aspetta, quindi siamo. E quindi non vado a trovare anch'io, ciao. Ma stamattina mattina ti ha mandato adesso? No, 19 qui, 19.13 adesso. Ah, insomma, 17 ora ti ha mandato adesso. Adesso, le 19.16, quindi 3 minuti fa. Anzi, credi che ogni mattina non vedo l'ora di andare a lavorare, la notte vedo l'ora che arriva domani da lavorare, però oggi invece no, perché solo pensai, devo fare il tampone domani mattina, alle 8:15 mi rompe. Grazie. E quello rapido, ti si funge già dritto, forte, tutti sono metati, e spero che non sia il solito, gà. La mazza di invaria. Te l'ho mandato tu. Scappa, aspetta, non ci vedo. Allora, sì, ora te lo guardo. Aspetta che passo nell'altra base, vai, che ne sei tutto qua. Una discoteca. È festa, popolo. Perché? È festa, quando la domenica lui non lavora in festa. Anche la bicicletta c'ha riga. Via. Sta festeggiando. Che parte non entra tu un oggi in radio, buona. Senti, sarà buona. Ma ecco, la sta festeggiando. Con la musica. Ma dico, cosa sta festeggiando così, tanto per festeggiare? La giornata libera al lavoro sta festeggiando. Bene, mi senti, Tony? Perfetto. Non potente come prima, come radio, leggermente più chiara. Più chiara, addirittura. Sta perdendo colpi il capo allora, questa è bella radio, questo è il 574 della Midland, quella che ti ho letto stamattina. È più chiara questa qua, l'altra è più grossolana, capito? Ah sì, quella è più grossa, sì. Questa è forte ma è più chiara, già meno acuti. Già va bene. Quella che attacchi c'ha, Claudio? Un 48, attacco a 4, Alan 48. Sto usando lo stesso microfono che uso con l'Alan 48, non ho toccato per niente. Vabbè, un paio di microfoni ce li ho accanto. Mi dai due. No, mi piace, infatti sto sempre parlando col baracchino perché, vabbè, non serve a niente parlare con quelle radio, oramai. Infatti le ho spente e mi sono passato all'altra base. Mio figlio mi ha mandato in WhatsApp l'autocertificazione, perché lui lavora a Nuoro, da posa da noi deve viaggiare. Su WhatsApp me ne sono stampato e ne ho fatto già 12 fuggi. Addirittura, perché? Perché non so se dopo vado bene, se ci vuole una data, ogni giorno ricambia la data, capito? Non puoi cancellare e rifarlo, quindi ogni giorno ci vuole un foglio nuovo, presumo che sia come tempo fa, però se non è così basta uno, mi va bene, poi lo vuole anche la mia ex moglie, lo vuole anche mia figlia, quindi poi se qualche uno gli serve glielo do. Non hanno parlato di autocertificazione questa volta, almeno che sia sottinteso, boh. Se deve andare a lavorare, sì. Se deve andare a cose di salute, sì. Capito? Penso proprio di sì. Allora, siccome io il 29 e 31 devo lavorare, devo fare solo un'ora e 10, un'ora e 4, la posta per la provincia. Penso me lo daranno anche loro il foglio con l'autorizzazione. Come dice Gianni, io non ho sentito niente di autocertificazione, Antonio, capito? Guarda che ho regolato leggermente il microfono, va meglio così? Sei un po' di metallico. Un po' di metallico. Aspetta, lo rimetto com'era allora. Ecco qua, a 2 allora il tono, così va meglio? Sì, perfetto, lascia così. Pensavo di regolare, invece devo guardare, la regolazione è questa, già va bene. Cioè, io dico questo, Claudio, non si vuole una certificazione, allora uno può dire tutte le balle che vuole, deve dimostrarlo, ecco perché sopra ci vuole la certificazione. Però come dice Gianni non ne hanno parlato dell'altra certificazione per uscire, non lo so, il fatto è che sinceramente io non ci ho capito un cazzo ancora. Non è chiaro, perché l'altra volta ci voleva, c'ha ragione Tunino, l'altra volta ci voleva. Però questa volta non è parlato, lo può sempre dire, io non ho sentito nulla, cioè non hanno detto nulla di questa cosa dell'autocertificazione. Tempo fa mi hanno fermato i carabinieri a Fabagnita, quando c'è l'auto che ci ha cacciato in mare non ne ho io. Non l'ho procurato, non ce l'abbiamo lui, l'hanno copiato dello Stato a fare la spesa. E viene da qua, ma veramente non usciamo. C'è una fila tremenda, mi sto andando in ospite, faccio un giro, vado via la conduttore e sono andato in ospite. E ha scritto così, ho chiesto a andare a vederci. Giustamente ho chiesto il documento, tutto quanto. Mia amica gli hanno fatto l'osservazione, erano da Eurospiti in via Porto Torres lì, è andata a fare la spesa, abita a zona Sassari 2, gli hanno detto come mai si era allontanata così tanto per fare la spesa, quando a Sassari 2 c'erano altri negozi, lui gli ha detto perché qua si risparmia e io non mi posso permettere di comprare un altro negozio, vengo qua per risparmiare. È giusto, anch'io farei così, io abito dove abito, già lo sai. Se voglio andare a risparmiare vado nello spigno, vado a fare gli altri. Cioè loro me devono dire dove devo andare, raccomanda che si spende di più, ce l'ho capito. Boh. No, l'hanno mandata indietro questa amica mia, gli hanno detto di tornare indietro che era troppo lontana. No, io avrei insistito, io vado nello spigno. Boh, volete farmi il verbale? Ci vediamo in tribunale, questo l'avrei detto, anche intanto lo tenere in ballo. E lo metti per iscritto nel verbale. Ma stiamo scherzando. L'hanno fatta ritornare indietro, si stava parcheggiando, loro si sono messi proprio all'entrata di uno spigno. Si stava parcheggiando, ho detto no, ritorno indietro, dice ma sono già arrivata, no, assolutamente, vada vicino a casa sua a fare la spesa. Questo è abuso di potere, e Audaeda, cioè a me ha messo due sorrenti, perché io vado dove risparmio, lui me ne dà i soldi, ce l'avevo capito per spendere di più, ma stiamo scherzando, è avanti qua. Cioè ti obbligherà pure ad andare dove dicono loro, ma stiamo scherzando, questa è dittatura, ma io dai. Ma la stanno già una forma di dittatura, ci stanno dicendo tutto quanto loro, quello che dobbiamo fare, eccetera, eccetera. Io capisco che ci sia questa forma di coronavirus, però se ognuno di noi ha un po' di testa e rispetta le regole, forse si riesce ad andare avanti, si riesce a migliorare. Ma siccome c'è un bel di gente, compreso uno del mio palazzo, che lo trovo sempre senza mascherina, e l'altro giorno l'ho ripreso, gliel'ho detto, e si è messo a ridere, no, non ridere, non scherzare, perché qua in ascensore, come stai salendo tu, ci sale altra gente, e se tu sei contagioso, contagia tutto, tutto il palazzo contagia, ma stai scherzando? Beh, certo che sì. Comunque la stava facendo esagerata, perché io dico questo, grazie a Dio da marzo, io non ho mai stato contagiato perché ho rispettato sempre ciò che hanno detto, sempre la maggiore mani, sempre quello, sempre mascherina, sempre distante, grazie a Dio non ho mai avuto niente, quindi non dico mai dire mai, comunque. Adesso il fattore che ti chiudono a Natale, e beh cos'è concluso? Ce l'hanno giù preso, ah perché a Natale tu puoi contagiare e dopo che non è festa, non c'è più il virus, dai, a me mi fanno ridere, ragazzi. Non so se avete sentito, il virus della Fiori sta aumentando la situazione. Sono quelle persone che non gliene frega niente le mascherine, ma le mascherine sotto il collo, ne ho visto parecchie. Tony, arrivati a questo punto io penso anche che sia nell'aria questo virus, che non sia questione di mascherina di cose, che sia proprio nell'aria. Non è possibile che sia si stia divulgando così in fretta. Ha detto adesso fuori, adesso non mi ricordo dove, in una città all'estero, si sta divulgando a vista d'occhio. Aspetta Gianni, guarda che ha detto anche oggi che c'è un altro virus che si propaga molto più velocemente del virus del Covid-19. Ma infatti stanno, secondo me, questa qui c'è la mano dell'uomo, non è possibile che fai di strage, capito? Vuole fare strage in tutto il mondo. La mano di qualcuno c'è lì, non è possibile. Cioè, ma è stato il virus così, cioè ci sono stati, ma ti posso dire a livello influenzale, non a questi livelli far morire questa gente. Ok, dai. Ho cambiato radio, adesso sono Colponi 23 canali. Come mi ascolti, Tony? Mi sembri un altro CB. Come ti sembro? Un altro CB, non sembri Claudio. Ah, cambia la voce? Vabbè, questo microfono è completamente diverso, però già funziona, dai. Sentite, dovrei bere bene la timbrica, però prima chi te lo fai, manco un duro. Questo è il microfono che piace a Gianfranco, perché non è di quelli, come si dice, che spingono tanto, va. Tu Gianni mi senti? Gianni? Ah, si trova, Gianni! Cosa vuoi che ti dica? A Puglia che arrivi, a Puglia! Cosa? O intanto sparisce Gianni. Aspetta, a voi che arrivi, a voi. Cambiando radio. Cosa, già? Che stavo cambiando radio. Mi dà l'impressione che stai parlando nascosto. Ecco quell'apparecchio, alla gua. Perché già passa la radio? No, non è che passa, è strana, boh, sembra che sei... Non è come l'altra, l'altra è più bella, quella del Mitra, secondo me la promuove. Sembra 4CB. Questo è un microfono normale, dai, microfono normale, però già va bene. Cazzo, gira ogni radio, la giri muri in un microfono a tavolo. Questo è l'unica senza col microfono normale, dai. Ah, se è normale un altro conto, cla. Se è normale, già va bene, dai. Già va bene. Questa come va? Come radio? Bene, bene, bene. Ciao, bombolino. Abbiamo visto la tua discoteca. Il compleanno ha fatto. Io sto ritirando tutto, sto ritirando. Cazzo, in giostre stasera. Sì, stasera è un'allegria, va. Comunque già io l'ho sempre detto. C'è la mano dell'uomo. Arrivato a questo punto ho solo una cosa da dire. C'è stata, diciamo, l'estensione dei dinosauri, questa volta della persona, dell'uomo. L'estinzione, sì, è l'uomo. Ma è risaputo, dovrebbe essere dipeso dalla Cina, tutto quanto. Perché visto loro, sono stati i primi che ci hanno rifornito le mascherine, perché si sentivano in colpa. Da voi, avanti, sono stati i primi che se ne hanno tolte le mascherine, che non c'è più un coronavirus lì. Però, vabbè, che loro se non usavano la mascherina li sparavano quando li trovavano in strada. E così devono fare qua, vedevano i sicuri. No, non guardavano nessuno in faccia, senza mascherina, boom, ti tiravo. Allora siccome si botta tanti proiettili. Oh, già sei esagerato i chimi, magari il manganello ci voleva, ma siete così esagerati, no, dai. Oh già, e invece con questo come mi senti? Bene, forte e chiaro. Anche qua. Questo è l'Intec 3104F. Va bene, Claudio. Qua già sei tu. Ah, qua già sono io, va bene. Anche i watt sono giusti, già va bene. Quanti watt stai uscendo? 10 watt, questo ne dà 10. L'hai aumentata tu però quella radio. Sì, l'ho portata a 10 watt. Infatti era quella, era troppo abbassata per quello che faceva quel ronzino. No, adesso va bene. Va bene, anche il segnale c'è giusto, perfetti, eccetera. Ottimo per la truppa. Torni io con questa, con 4 watt, come ti arrivo? Sì, sempre fondo scala qua. E adesso, 1, 2, 3, guarda, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sei vicino allo 0 dei 9.30, da lì non ti muovi. Sei leggermente saturo come hai attaccato, boh. Aspetta, prova a controllare di nuovo. Guarda, a vedere, 1, 2, 3. Le rotine a 0, addirittura sei 9, 10, il massimo. Ti ho pagato. Già va bene. Non mi arriva nessuno così. Va bene, tramite una persona, ragazzi. Se non gli unici, il Galaxy è fuori di pista. Ho detto tramite una persona mi arriva un po' più di te. Non ho capito. Tramite una persona mi arriva leggermente più forte di te, mettendo tutto le rifiniti a zero. KK. Ah, ho capito. Portantista. Portantista? Importante c'è lì che arriva a fondo scala già. Lui ce l'ha di fronte forse. Ma io non ho sentito. Sì, ho visto la portante. Non dico altro. Meglio usci, meglio ce ne sciogga molto. Si potrebbe vedere chi è. Posso staccare l'antenna, ti dà vedere. Vabbè, a me staccato l'antenna non usciamo niente. Cava. Va bene. Chi è rimasto ancora? C'è uranio ancora, uranio. È andato via. E chi c'è di altro? Solo noi siamo rimasti, noi tre. E Bombolino, non è qua. Ah, c'è anche Bombolino, me lo stavo dimenticando. Ciao Bombolino, avanti. Ho quasi ritirato tutto. Ok. che sono più attivi, cazzo, è tutto. Sembra che veloce Bombolino. Claudio, cosa hai detto? Mi siete cazzicati con Claudio Bombolo. Cazzo di allora, sempre veloce. Ha giudito che ne bugando in tutto il parco giochi. Sì, era vero, stavo. Mi avete rilanciato, io ho risposto. Ma tu ballato hai? Sì, un poverino, cantato, ballato, di tutto. Okay. Sì, avrei tu il compleanno, beh. Ah, così, perché mi piace. Ma quello lì che cos'è? Un impianto. Un impianto che hai fatto tu o l'hai comprato? Greco. Serio, Vicio. Hai comprato all'epoca. Comprato da Cortatore di Musica, sì. Aspetta, ho registrato il break, mi sembra Fabrizio avanti. Ciao Claudio, ben sentito. Ascoltate, volevo fare una prova, se possibile. Un giro di controlli, se vi ricordate il segnale, perché ho cambiato tutti i radiali di massa, perché queste cavolo di non cornacchie, cosa sono, questi sturni mi hanno fatto cadere 4 o 5, quindi li ho ricostruiti e avanti ieri li ho piazzati, però non avevo avuto modo di uscire, ho visto che da 1 ai 5 e 1 ai 4 sono scese a 1 a 0 e stazionarie, per vedere se magari vedevate differenza di segnale, penso sia più o meno uguale, ma magari se qualcuno si ricorda il mio segnale e differenza. A te Claudio. No Fabrizio, sei perfetto, il tuo segnale è sopra il DB del fondo scala, io sto usando il baracchino e così è. Per me è uguale, non ha cambiato niente, ho commutato al K e sei sempre uguale Fabrizio. Vediamo Gianni, vai già. No, anche da me, ciao Fabrizio, ben sentito, là. Ti avevo chiamato stasera, stai arrivando 9.30. E cosa ti doppi i nomi? Cioè, sei tu da fondo scala? 9.30 quasi, qua, ciao Fabrizio. Ciao, ben sentito anche a te. Meglio così, dai. No, era giusto per fare una prova, che sono due giorni che la voglio fare, poi non sono mai riuscito a intervenire. Gianni, ho visto la chiamata, ti ho risposto, mi ha detto, magari hai sbagliato, se richiama se ti serve qualcosa. No, aspetta, lo faccio vedere in diretta, c'è un problema nel Galaxy, te lo faccio sentire, adesso lo attacco e te lo faccio sentire, cosa? Eia. Comunque, tornando Antonio, io ho due laser, oh, Claudio. Due cose che ti fanno tanti di questi colori strani, pupazziti, Babbo Natale, stelline, un casino. Quest'anno non l'ho piazzato. Ho soltanto messo le luci che avevo messo l'anno scorso e siccome ci ho messo un casino di tempo, piano piano, tutte le luci che ho messo con le fascette, per sconciarle tutte. Piacco un attimo! Lascio il tuo accanto e poi la tratta con la spina sulla posta. Ho isolato infatti le spine e così ho fatto. Funziona, già va bene. Aspettiamo che Gianni colleghi l'altra radio, così la fa sentire a Fabrizio, a vedere se fa quel difetto. Ci sei già? Fabrizio! Ehi, avanti! Cosa facendo il problema? Di solito come scalda, fa rumori, si sente l'ecco un po' di schianto a lui, a Fabrizio, roba del genere. Ce lo sta facendo. Prima evidentemente lo fa quando scalda, già cosa vuoi ti dire? Boh, tienilo in funzione, magari te lo rifà, ma può darsi pure che non so cosa dirti, perché inizialmente parte bene, poi si incasina. Fabrizio, io non lo so, sei sempre uscito bene col Galaxy, io ti ho sempre vantato, una radio eccezionale.